lui per segnare, non c'è niente da fare. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Verticale verso Icardi, attenzione, posizione regolare, aggancia pallone, tutto solo Icardi, rete, rete, tutto regolare, proprio lui Icardi, ancora in gol al quarto minuto, Inter in vantaggio. Manca ancora un mese, quindi dobbiamo cercare di fare del nostro massimo, probabilmente non abbiamo tante possibilità, però dobbiamo cercare di fare il massimo, poi al limite rimpiangeremo quello che abbiamo buttato alla fine, non oggi credo. L'apertura verso Totti, Totti! 3-3. Alla fine con quel 3-3 ha salvato la partita. Cosa vogliamo dire di Totti? Non ha salvato niente. La partita l'ha salvata la squadra. Lui ha fatto gol come deve fare, ha calciato una palla in porta. Palla dentro la del rigore per l'inserimento di Khedira, che stoppa e segna un gol da favola. Juventus in vantaggio dopo 10 minuti, illumina Pogba, finisce Khedira, 1-0 Juve. Sono convinto che questa squadra nel giro di 2-3 anni crescerà molto, perché è un gruppo di ragazzi giovani guidati da un gruppo di vecchietti molto bravi, affidabili sia a livello tecnico, tattico, ma soprattutto a livello mentale, e su questi la Juventus può avere un futuro importante. Ancora il Milan, il pallone per Bacca, Bacca parte il tiro, rete, Bacca, Milan in vantaggio. Sicuramente non quello dove adesso, per me il Milan ha le possibilità di giocarsi dei posti migliori, dei posti più importanti. E ho trovato, come ho già detto, questa settimana una squadra diversa rispetto a quella che si sentiva sempre nei mesi passati, dove si parlava di giocatori con poca personalità, dei giocatori con un atteggiamento sbagliato. Si sbaglia Stefano da Monza, che scrive: oggi non vi ascolto perché parlerete solo di Totti e Spalletti. Parleremo anche di molto altro, anzi di tutto quello che volete. 800240024 è il numero verde, perché c'è una corsa a scudetto che è chiusissima. C'è Marchisio che si è fatto male in modo serio, e questo è un problema per la Juve certamente, ma soprattutto per la nazionale, e cominciano a rimbalzare altri nomi, fra tutti quello di Andrea Pirlo. C'è l'Inter che rialza la testa, c'è il Milan, che il primo Milan di Brocchi, che vince a Genova, e Balotelli che gioca una buona gara e viene coccolato dal suo attuale allenatore. Allora, bando alle ciance, io vi chiedo subito, così tagliamo la testa al toro, tra poco arriva anche Pardo. Pirlo, Totti, Balotelli, nomi plausibili per l'europeo? Non cascate dalla sedia, ragioniamone insieme. Intanto io saluto e ringrazio Marco Cherubini, che ieri, Mediaset naturalmente, era a bordo campo a Bergamo. Ciao Marco. Ciao, un saluto a voi, un buon pomeriggio. Ho bisogno dei tuoi occhi e delle tue orecchie da cronista, e anche del tuo intuito, volendo, da cronista. È una storia che parte da lontano, che si è perpetrata in questi mesi con una complicità, diciamo così, un po' discutibile da parte della Roma, a cominciare dal presidente Pallotta, che ha tutto il diritto di dire basta a Totti, ma lo deve dire apertamente. E poi i rapporti personali. Magari tra Totti e Spalletti. Non usare un sicario, tu dici? Insomma, questo è un po' il senso, un sicario, cioè, che poi tra l'altro... Quello che ti dico io, Marco, allora, adesso mi racconti cosa hai visto e sentito a Bergamo, però la domanda è questa: Spalletti a Miami ha ricevuto la mission di detottizzare e derossizzare la Roma? Io non c'ero, ma insomma mi dicono che è stato così. Molto bene. Cos'è successo ieri a Bergamo? Perché... è stato clamoroso quello che ha detto Spalletti. Esatto, e quello è stato, diciamo così, l'indizio, no? Perché uno Spalletti così nervoso era giustificabile nei confronti di tutta la squadra. Invece a una precisa domanda su Dzeko ha risposto parlando di Totti e della contrapposizione con Totti, e quindi questo Totti che usciva fuori, questo è successo da noi. Poi al collega Mangiante di Sky l'avete mandato anche in onda, ha detto ha salvato la partita, è un modo di dire, insomma, certo. No, e lì no, è tutta la squadra che ha salvato la partita. Allora ci siamo interrogati, e poi sponda Atalanta, perché dalla Roma non era arrivato nulla, insomma, dato che gli spogliatoi dello stadio di Bergamo sono molto ravvicinati, e sponda Atalanta sono cominciate ad arrivare delle segnalazioni che c'era stata questa lite furibonda. E poi, diciamo così, nel corso del pomeriggio ognuno, diciamo così, sfruttando le proprie fonti, e la ricostruzione è stata abbastanza unanime, l'avete letta oggi sui giornali, di uno Spalletti molto nervoso che apostrofa un po' tutta la squadra, che parla di una squadra che da 10 anni, qualcuno dice anche 20, sulla data, diciamo così, sì, delle discrepanze, sì, non vince nulla. E la risposta di Totti dice: ma ce l'hai pure con me, che sono entrato, ho fatto un gol e un assist, come a dire, insomma, forse in questo momento, in questa partita, sono l'unico da assolvere. E chiaramente c'era anche il risentimento di un giocatore che avrebbe voluto dare molto di più in questi mesi. E da lì si è scatenata una tempesta, perché insomma il fuoco covava sotto la cena. Sono due persone che in questo momento si sono volute tanto bene, sì, tantissimo, sì, ma adesso non se ne vogliono più così tanto. Finisce sempre con i piatti, sì, che volano, sì, con i piatti che volano. Marco, mi racconti per chiudere la storia delle carte fino alle 2 di notte, perché non l'ho capita bene. Ma guarda, anche lì, Spalletti, cioè, quando non sei a conoscenza delle cose certe frasi rimangono appese. Durante la partita ci siamo accorti che, rivolto a una parte della panchina dove non c'erano giocatori, Spalletti ha detto: ecco, è così, la Roma perdeva 3-2 e, diciamo, si era fatta rimontare 3 gol, aveva incassato meglio 3 gol dall'Atalanta, stava sfarinando un po' il sogno di un secondo posto da contendere al Napoli, quindi un momento di grande nervosismo. Spalletti, invece di parlare di un aspetto tecnico, dice: ecco, così si preparano le partite facendo tardi, giocando a carte. E anche lì si è capito che il riferimento era all'immediata vigilia della partita. Evidentemente qualcuno dello staff, magari anche qualche giocatore, c'è chi sostiene che insomma c'era più di un giocatore, però lì non si può essere precisi, perché figurati un po', mancano, diciamo così, dei testimoni terzi, come nel caso dei giocatori dello staff dell'Atalanta. Insomma, non si era preparata bene. La Roma, devo dire, non è nuova a queste situazioni, era accaduto anche a Borisov quando Florenzi ammise: abbiamo preparato male questa partita, che perse la Roma, guarda caso, 3-2 a Borisov, perché insomma pare che nel ritiro non ci fosse proprio il massimo della concentrazione. Quindi lì un riferimento abbastanza esplicito di Spalletti. Insomma, la situazione è: sta finendo un grande amore, sta finendo nel modo peggiore possibile, e questo secondo me potrà avere anche delle ripercussioni anche sullo svolgimento di questa finale di stagione, perché insomma, quando si parla di queste cose poi finisce non solo all'interno del raccordo anulare, ma giustamente se ne parla anche fuori. Grazie Marco. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao Marco Cherubini da Mediaset. E sempre a proposito di Mediaset, pescheremo Pardo subito dopo il traffico. 800 24 00 24, banale chiedervi da che parte state, altrettanto banale chiedermi: ma Totti, Balotelli, Pirlo, per come siamo conciati, inutili per gli europei? Non cascate dalla sedia, Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo tra pochissimo. Tutti convocati. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta. Tutti convocati. Dopo tanto tempo insieme, qualche cosa dentro muore. L'apertura verso Totti, Totti! Totti! 3-3. Fai tu, mannaggia te, che vuoi da me? Eppure sì, me specchi ancora, non mi manca niente. fine con quel 3-3 ha salvato la partita. Cosa vogliamo dire di Totti? Non ha salvato niente, la partita l'ha salvata la squadra. Lui ha fatto gol come deve fare, ha calciato una palla in porta, come l'altra volta ha dato un buon pallone. Gli era capitato di darne 3, giusti ne ha date 1 e abbiamo fatto gol. Se ne dava 3 facevamo 3 gol. Oggi ha calciato una palla dal limite dell'area dove gliel'hanno preparata bene. Lui a questi piedi qui ha fatto un gran gol, ma fa parte della squadra, è una cosa che deve fare come fa tutta la squadra. Mannaggia te, se posso sapere. È piena di canzoni malinconiche, Giorgio De Luca. Ciao Pierluigi. Come va? Bene, tu? Bene, bene, casinato per Tiki-Taka, va bene. Casinato per Tiki-Taka, poi mi racconti. Luca Di Bartolomei, buongiorno. Ah, eccolo. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao Luca, allora datemi la vostra opinione su questo caso Totti e schieratevi, vi prego, Pardo. No, io penso che la gestione in campo da parte di Spalletti, risultati alla mano, sia una gestione virtuosa, nel senso che Spalletti sta ottenendo grandi risultati e che quando ha avuto bisogno di Totti l'ha motivato e gli ha dato quel pepe giusto perché Totti potesse fare tanto, e l'ha fatto sia contro il Bologna che ieri. Devo dire la verità che mi sembra che ultimamente stia esagerando in questa missione quasi filosofica di dover combattere il tottismo in città, ecco, non credo che il problema... Detottizzazione, è una parola un po' lunga, eh. Io credo, ma questo da qualche tempo, che tutte le grandi squadre, le grandi società e anche le grandi tifoserie debbano, di fronte a un fenomeno come Totti, un giocatore così grandioso, inevitabilmente pensare a come elaborare la fine della carriera. Non voglio dire lutto, ma insomma la fine della carriera è un giocatore così, perché è ovvio che mancherà, e devi riuscire a gestirla bene questa cosa. Però da qui a fare quello che sta dicendo Spalletti, secondo me non ci siamo, perché si rischia invece di allargare una frattura che è sbagliata. Ripeto, la gestione in campo mi sta piacendo. La squadra, devo dire la verità, dopo la famosa esclusione di Roma Palermo ha risposto alla grande, quindi non... Però poi ci sono queste dichiarazioni, mi sembra, insomma, ieri pensare francamente incomprensibili. Che soffra perché c'è Totti, beh, allora è un insulto implicito a Dzeko, okay. È un giocatore chiaro, scarto, no? Dal punto di vista caratteriale. No, prima abbiamo parlato con Cherubini, che ci ha raccontato i contorni dal punto di vista della cronaca della vicenda. C'è anche chi dice, Luca e Marco Cherubini dice, naturalmente io non c'ero, non posso dirlo, ma c'è chi pensa che a Miami, in quel famoso colloquio, Spalletti abbia avuto l'incarico di detottizzare e magari derossizzare la Roma. Luca? Ma al complottismo... Tu non credi o non vuoi credere? No, ma diciamo che io al retroscenismo credo veramente poco. Facendo una battuta, si è parlato per anni di una famosa scazzottata fra Agostino e Paolo, che non c'è mai stata, quindi... Dove Agostino era papà e Paolo era Paolo Conti, giusto? Era Paolo Roberto Falcao. Paolo Roberto Falcao. Sì. E già qui dovrei chiudere la telefonata, tu capisci? Sì, ti capisco. Scherzo. No, allora, davvero, io credo una cosa. Credo che con Spalletti si sia trovata una quadra che prima mancava, una quadra che ha più o meno rimesso in sesto quello che si doveva rimettere in sesto. Credo che affamare la bestia, nel caso aperte virgolette, è un modo di dire, cioè far crescere in Francesco una grande voglia di rivincita, di sia stato utilissimo. Credo che la gestione in campo si sia vista. È un ragazzo di 40 anni che ha una mente di una velocità incredibile e con il corpo di un ragazzo di 40 anni. Però credo anche un'altra cosa, che se noi siamo qui a discutere di questa cosa qui, molto è figlio dell'incapacità di questa società di riuscire a gestire in una maniera un po' più normale, da professionista, una vicenda di questo genere qui, e dall'altro lato che però anche Francesco non ha saputo gestire benissimo, perché quell'intervista fu un'intervista bruttissima. Però due parti che si definiscono professionistiche, forse anche per l'amore che i tanti romani hanno nei confronti del tutto, cioè della Roma, della maglia, di Francesco, che ne è la rappresentazione più alta da 21 anni a questa parte, forse potevano gestirla tutti un po' meglio, ecco. Sì. Poi qualcuno dirà, ma quale società deve gestire questo casino? Dov'è la società? E torniamo a un discorso abbastanza datato, Pardo. sicuramente. Io credo che ci sia un po' della lontananza di Pallotta dietro a questa mancanza di conoscenza o di sensibilità rispetto al tessuto della città, e credo che ci sia anche un po' dello stile americano di Pallotta, che è uno molto, molto americano, cioè molto ruvido. La famosa battuta, cambiando completamente argomento, battuta, la famosa affermazione sui fucking idiots, al netto della, dell'aspetto, della sostanza, della materia, insomma, un presidente italiano anche con la stessa voglia di chiudere un certo tipo di rapporto, mm-hmm. però l'avrebbe, avrebbe usato altre parole, avrebbe usato dei toni un po' più morbidi, un po' più diplomatici. Pallotta non li usa, anche nella famosa conferenza stampa che diventò un giallo un mesetto fa, in un incontro in America, parlando di della pressione che aveva da parte dei media, da parte dei tifosi su Totti, anche lì è stato veramente poco diplomatico, perché Pallotta è poco diplomatico. Io ho avuto modo di intervistarlo un paio di volte ed è assolutamente uno che quasi in certi momenti ti può anche intimorire, proprio per quanto è diretto nel dire le cose. Quindi c'è, secondo me, un punto di comunicazione, è un punto proprio di distanza rispetto alla realtà di Roma. Io credo però che finirla così per la Roma sia un errore, eh? Lo dico, cioè, mentre dal punto di vista tecnico, secondo me, è chiaro che la Roma debba guardare avanti, e io posso anche pensare che sia un giocatore che il prossimo anno, considerato quanto viaggia velocemente il tempo a quell'età, ne so qualcosa io che ho 42 anni, e lo sappiamo, no? Anche per un atleta come Totti, però in quel gioco di eccellenza sulla fase di non possesso palla, è chiaro che da un anno all'altro le cose possono cambiare, sono cambiate purtroppo rispetto a un anno fa e cambieranno inevitabilmente nel prossimo anno. Quindi, secondo me, si può anche sostenere legittimamente l'idea, sì, che Totti, certo, non sia, certo, non sia pronto, rimane la... però devi trovare una quadra, certo, devi trovare una quadra, e rimane la motivazione di quella durissima presa di posizione nel dopo partita, dopo che c'è un giocatore che comunque è il simbolo perpetuo della Roma e che ti ha dato qualcosa di importante. Quindi le due cose non mi sembra che vadano di pari passo, e magari possono, Luca, per chiudere, creare un certo fastidio comunque all'interno di una società che è impegnata in una corsa al secondo posto, che, visto il Napoli dell'altra sera a Milano, non mi sembrerebbe, uso il condizionale, impossibile. No, su questo non mi estorcerai nulla, però che sia a parte, non credo neanche che sia giusto dare a Pallotta non responsabilità, però, diciamo, Pallotta ha lasciato, non è che gestisce dagli Stati Uniti una cosa con dei telegrammi, c'è qui un'intera società, cioè, ragazzi, la Roma è un pezzo della mia vita, è un pezzo del mio cuore, e quando ne parlo, diciamo, un po' mi sento anche, però ci sono 200 persone, ci saranno 40 dirigenti, cioè Pallotta deve giustamente fare il presidente, poi ci sono il direttore generale, c'è, cioè, il direttore sportivo, c'è, cioè, il capo della comunicazione, cioè, certo. Una società professionistica non può stare sempre a ricasco delle parole del presidente. O il presidente è, come lo abbiamo inteso fino ad oggi, uno da Zamparini a Berlusconi, quindi uno che è molto presente, o se, diciamo, avanti il management, il management a questo punto decida, il presidente darà le linee guida e il management decida, però stiamo lì a nascondercela troppo dietro. Le decisioni si prendono con grande onestà, soprattutto nei confronti di chi verso questa maglia ha dato un pezzo incredibile della sua vita, sportiva e non. Sono d'accordissimo, ma ci vuole qualcuno che ha la legittimazione di prendersi la paternità di una certa decisione. Mi sembra che questa legittimazione sia stata data in modo tacito a Spalletti, che può anche andare bene, può anche andare bene, però la sensazione che ci resta addosso, Luca, è questa. Non c'è nulla da fare dopo quanto è successo ieri. Ci mancherebbe altro, però questo io credo, ecco, diciamo, poi voi siete molto più esperti di me, io credo che queste cose vadano a, come posso dire, ad incancrenirsi quando non c'è una parola netta, una definizione chiara, si fa una conferenza stampa, oppure la Juve troncò. Bravissimo, perché il punto è quello, la Juventus all'assemblea degli azionisti andò lì e disse d'ora in poi tagliò il cordone umbilicale con Alessandro Del Piero in modo anche brutale, attirandosi le critiche di moltissimi, ma anche noi compresi. Però fu una decisione di grande di grande coraggio, io credo, da parte della dirigenza della Juventus. Luca, grazie, alla prossima. No, io volevo chiedere una cosa, ma volevo chiedergli, a parte che, vabbè, domenica facciamo questa partita liberi Nantes, Safra Napoli, i migranti di Roma e quelli di Napoli insieme, mi sembra una bella iniziativa nel giorno prima di Roma-Napoli. Lui è molto coinvolto, insomma, in tutte le tematiche che riguardano gli ultra, il tifo, lo stadio. Che sensazioni ha? Perché Roma-Napoli purtroppo non è mai una partita banale da questo punto di vista. C'è la sensazione che si possa andare avanti, che si possa pian piano rimarginare questa ferita? Io mi auguro che sia naturale rimarginarsi una ferita. Mi auguro che si possa tornare ad una normalità nell'andare allo stadio sempre, non soltanto in alcune partite, in altre come queste. Roma-Napoli invece essere militarizzato anche l'avvicinamento alla partita e non solo rosso. È un percorso e non porterà via un anno, porterà via un po' di più. Noi dobbiamo pensare che ritorneremo a una normalità, a mio modo di vedere, un po', diciamo, se ci lavoriamo per i prossimi 5 anni. Questo è realismo, bravo Luca. Grazie, alla saluto, prossima. Grazie a voi. Ciao Luca Di Bartolomei. Borsa, torniamo. Devo dire bravo al mister che guarda la settimana, i comportamenti, lo sta facendo giocare con pieno merito e Francesco sta rispondendo. Ma cambia qualcosa nel senso del rinnovo contrattuale? Ma questo non lo so, questo, il calcio è imperscrutabile, io non credo che cambieranno le cose, però bisogna dare atto al giocatore e all'allenatore che lo fa giocare, che sta facendo cose importanti in questo momento. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. JP Morgan Asset Management vi presenta Tutti Convocati. Non so se è la migliore Inter della stagione, sicuramente ha fatto un'ottima partita, i ragazzi sono stati bravi come altre volte, non credo che abbiamo fatto solo questa partita buona. Icardi fa gol, va bene, se continua così nelle prossime 5 partite. Ale, ale, ale. Sono stracontento di Mario, è stato fantastico, gli ha mancato solo il gol, che solo una gran parata gli ha fatto sì che non avvenisse, però quello che mi aveva detto e quello che gli avevo chiesto l'ha fatto. Vedere l'atteggiamento di Mario oggi è stato un segno molto importante, ma allo stesso tempo è stato un segno importante anche vedere l'atteggiamento di Carlos, che comunque ha aiutato la squadra nei momenti di difficoltà, Buonaventura che si è dato da fare, i centrocampisti che hanno lottato su ogni pallone e hanno cercato di gestire quelli che erano anche a volte più difficili. Sì, perché a proposito di Reaparecidos ci sono anche loro, Maurizio Icardi e Mario Barutelli, che ieri non ha segnato ma si è preso un sacco di coccole, in primis da Brocchi. 800240024 numero verde, Giorgio De Luca nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Giuseppe e Luigi già in linea, Pierluigi Pardo collegato con noi. Giuseppe, buongiorno. Ciao gente. Ciao. Ma avete già chiuso la parentesi Totti Spalletti? Noi chiudiamo e apriamo continuamente qualunque cosa. Va benissimo. Allora io sono io sono un supporter della Juventus e sì, ti dico che sono dalla parte di Totti. Non fosse altro per il fatto che se ha un altro contratto per un altro anno, noi della Juventus vinciamo il stesso scudetto. Ah, e quindi la Roma non ci farà paura. Dalla parte di Totti da quel punto di vista lì. Ah, ho capito. Certo, cioè più gioca Totti e più la Roma non vince nulla. Mi sembra piuttosto ingeneroso nei confronti di uno dei più forti giocatori della storia del calcio italiano. Anche a me sembra ingeneroso, poi sicuramente il fatto che così tanto spazio dell'agenda giallorossa in questi, che comunque è una squadra che vuole vincere, che negli ultimi anni è stabilmente nei primi posti, venga occupato dalla vicenda di un giocatore meraviglioso, ma appunto quarantenne, questo può essere in effetti una cosa un po' illogica, un po' irrazionale. Cioè una mentalità pragmatica ti porterebbe a doverti occupare di cose realmente legate al futuro e Totti per ovvi motivi di anagrafe non è il futuro della Roma, però ripeto, secondo me è un errore anche dal punto di vista economico che finisca così, perché Totti alla Roma è molto di più di quello che altre bandiere sono state negli altri club. Totti è il miglior giocatore per distacco della storia della Roma e il secondo è 100 km più indietro, e un altro come Totti chissà se nascerà mai. Quindi stiamo parlando di una cosa che non ha precedenti, che non ha uguali, e quindi anche dal punto di vista strettamente economico, oltre che sentimentale, secondo me questa vicenda deve essere gestita bene, perché sì. se Totti esce dalla Roma è una sconfitta, non è semplice da gestire, questo è evidente, però il quadro che emerge a questo punto è difficilissimo. Io capisco che Totti possa avere la voglia di continuare a giocare, questo è legittimo, ce l'aveva anche Del Piero che se n'è andato. Certo. I campionati non nobilissimi, sarebbe stato interessante chiedere all'ascoltatore cosa ne pensava invece della vicenda Del Piero, cioè se poteva essere fatto un paragone. La Juventus alla fine è tornata grande nel momento in cui ha tagliato questo cordone ombelicale con una delle sue bandiere. Luigi, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Mi dovete consentire due cose. Sì. Uno, io sono tifoso del Napoli, per la Roma secondo me è un atto di sciacallaggio che stanno facendo contro Totti, e la società si sta dimostrando debole, perché se volevano mandare via Totti glielo dicevano senza tanti casini, farlo fare, mettere la pistola in mano a Spalletti. La seconda cosa non è comoda, è quello che vi dico, però ascoltate anche i se e i ma. Io dico una cosa, ieri c'è stata tutta una commemorazione dell'infortunio di Marchisio, che si guarisca quanto prima, che guarisca benissimo, e che un giocatore di così alta morale, io che guarisca benissimo sono felice, che stia bene, sono felice, però alta morale è uno che ha inneggiato all'odio contro la mia Napoli, non la vedo questa alta morale. Quindi, siccome la parola odio non la userei mai per nessuno, io dico solo questo, guarda, proprio per essere generoso, che si faccia una settimana in più di convalescenza per ogni volta che ho usato la parola odio. Non mi pare bello, Marchese è un giocatore che si è fatto male, sono stati fatti certi discorsi, tendo a prenderli, a provare a capirli nel modo più puro possibile, per quanto la parola odio non debba mai essere accostata allo sport, questo come in linea di principio. Poi speculare sulla pelle di un giocatore che si è fatto male, starà fuori 6 mesi saltando l'europeo, beh, questo non quantomeno non mi pare carino. Io non credo che al di là di quella gaffe che Marchisio sia animato da nessun atteggiamento contro il Napoli, se non quello di rivalità sportiva. Sì, il che è sacrosanto. Il che è normale, certo. È normale pure che ce l'abbia Sarri nei confronti della Juve, cioè questo rientra nella normalità. Ma se qualcuno vuole cantare, vuole mettersi a intonare il coro Devi Morire, io non ci sto in nessun caso, nemmeno se lo fa in modo più o meno pacato. Allora, tra i grandi rientri di ieri, tra le grandi riapparizioni di ieri, sai benissimo perché c'è anche quella del Parma che è tornato subito in Lega Pro, certo. Alessandro Lucarelli, capitano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Lucarelli, ogni tanto ci si incontra qui, quando è che ci viene a trovare? Quando sono libero. A Cologno, quando sei a Cologno? Sono giovedì sera. Giovedì sera. C'è Milan Carpi. Vabbè, comunque insomma. Puntata speciale di Tiki-Taka per ospitare Alessandro Lucarelli. Esatto. Sava Sandir, pardon. Senti, com'è stata questa stagione? Banale, ma raccontiamola. Zero sconfitte, insomma è stata una stagione trionfale per il Parma, ma per un giocatore che ha, insomma, che è qualcosa di più di un giocatore, di un capitano per quella squadra, com'è stata? A livello sportivo magnifica, perché non abbiamo, insomma, è stata una cavalcata trionfale dall'inizio, sempre primi, imbattuti, e ieri c'è stata anche la matematica, ma cosa più importante, diciamo, questa stagione è stata quella della rinascita. La rinascita di un club che è stato mal gestito e maltrattato da chi era allora, da chi lo gestiva allora, e che ha dovuto ripartire dalla Serie D per ripulirsi un po' di tutte quelle scorie che ci sono state l'anno scorso. Però è stata data grande dimostrazione di amore da parte della tifoseria, perché subito dal primo giorno ha dato il suo appoggio incondizionato alla squadra, facendo 11.000 abbonamenti ad agosto e concludendo poi ieri con 16-17.000 spettatori allo stadio. Quindi possiamo dire tranquillamente che il pubblico di Parma non era mai retrocesso, e adesso c'è la possibilità di guardare al futuro con molto ottimismo. Il primo step è stato fatto, ora ci prepareremo per il prossimo. Alessandro, stai lì un attimo, anche tu Pierluigi, traffico, torniamo. Tutti convocati. Tutti convocati. Pardo, quanto ci sta raccontando Alessandro Lucarelli è bellissimo, ma non inedito. Nello sport italiano capita spesso che grandi realtà che cadono sportivamente riescono a coagulare, forse anche proprio per questo motivo, grandi passioni. Successo non solo nel calcio, eh. Ma sì, sicuramente la benevolenza verso chi è sfortunato, insomma, la stessa cosa che provi nei confronti delle persone la provi anche nei confronti di un ente morale come può essere una squadra di calcio. Poi il caso del Parma è un caso veramente di grande sofferenza, di grande orgoglio, una squadra che ha fatto, che è stato un modello prima, che ha fatto storia perché è stata una piccola squadra che era diventata una delle sette sorelle, quindi ha raccolto tante simpatie, giocava un grande calcio, ha avuto anche recentemente delle fasi comunque molto positive, anche senza ripetere i fasti degli anni 90, quindi il fatto che sia finita così chiaramente la rende particolarmente simpatica e particolarmente amata. Insomma, siamo tutti felici nel sapere che il primo passetto è stato fatto, insomma. Senti Alessandro, un giorno tuo fratello, ospite di questa trasmissione, Cristiano naturalmente, disse, parlavamo di momenti dell'addio da parte di giocatori, di grandi campioni, ma non solo. E Cristiano disse, ma sapete, quando uno smette, tante volte non è nemmeno in grado di andarsi a pagare una bolletta. Questo per dire come sia molto difficile trovare il momento giusto per chiudere una parentesi sportiva. Sì, è vero, diciamo che è difficile perché uno che fa per 15-20 anni un certo tipo di vita, sempre le stesse cose, gli allenamenti, i ritiri, partite, insomma stare sotto i riflettori di punto in bianco svanisce tutto e non è facile da capire, non è facile capire il momento, no? No, onestamente no. Poi sai, uno dipende anche a livello mentale, uno può arrivare anche a 30 anni che è stanco, a parte che fisicamente e mentalmente, quindi ha proprio bisogno di staccare, oppure si rende conto che non tiene più il passo e quindi è l'ora di smettere, ecco. Quindi queste sono diciamo scelte più personali in base alla persona, che quello che sente sul momento. Io per dirti avevo detto a luglio che sarei rimasto a Parma e avrei fatto l'ultimo anno, in realtà adesso me ne faccio un altro. Ne fai un altro, sì, con grande gusto. Sì, perché mi sono divertito talmente tanto quest'anno, ho riscoperto un calcio molto, quello vero, calcio vero, questo genuino, dove ti porti la borsa, dove vai, scendi dal pullman, attraverso la strada per andare nello spogliatoio. Cose che non avevo mai vissuto, perché fortunatamente ho avuto una carriera che posso giocare in categorie superiori. Da un'altra parte, certo. Però me le sono gustate tutte queste piccole cose quest'anno e mi è ritornata la voglia di giocare. Poi fortunatamente, non avendo mai avuto grossi infortuni, fisicamente sto bene nonostante l'età, e quindi mi è venuta voglia di continuare ancora un anno. Di portarti la borsa sulle spalle un'altra stagione. Forse guarda, già l'anno prossimo forse si comincia già a non portarla più, già in Lega Pro si comincia. C'è qualcosa di diverso, già comincerà ad esserci qualcosa di diverso di più consueto. Noi giocatori dalla Lega Pro, invece in questi campionati siamo molto più responsabilizzati a cominciare a gestirci noi i ferri del mestiere, no? A lavarci le scarpe, a cambiarci i tacchetti, cose che ti hai per scontato che c'è qualcuno che le fa per te. Grazie Ale, bocca al lupo. Grazie a voi, ciao Alessandro. Ciao Luigi. Ciao Alessandro Lucarelli. È mica male questa, portarsi la borsa, pulirsi gli scarpini, i calzetti. Danilo, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Grazie, dica. Io volevo fare una precisazione nei confronti del problema perché è diventato un problema questo tra Spalletti e Totti. Spalletti è un grande allenatore, cioè nel senso che è un toscano come me, so come ragionano i toscani, è andato a Miami, è logico che ha messo delle condizioni, conoscendo già l'ambiente in precedenza, avendolo conosciuto e allenato, e ha messo delle condizioni. Le condizioni sono quelle che i famosi senatori, i famosi leader, tra virgolette, Rossi, Totti, eccetera, perché quella è una filosofia, non è solo Totti, della Roma, ecco. Quindi il cambiamento della filosofia prevede anche molto probabilmente l'eliminazione di questi, se questi non dimostrano intelligenza, strategia e capacità di capire, di mettersi a disposizione come un campione dovrebbe fare, a disposizione della squadra. E Totti non so se è all'altezza della situazione, se intellettualmente è in grado È chiaro che sono giocatori e sono personaggi molto ingombranti per un allenatore, perché hanno un grande ascendente sull'opinione pubblica, sui tifosi, perché dividono, ma questo vale per i succitati, così come valeva per Del Piero, così come valeva per Maldini, così come valeva per tutti questi giocatori che hanno un grande passato. Senti questa, Pierluigi, scrivono, se qualcuno vi dicesse che Brocchi sarà il Fascetti di Balotelli, ci credereste? Io grande fiducia. Ovviamente il nome che manca è Cassano, a proposito di questo discorso. Io grande fiducia in Brocchi, perché un po' lo conosco, mi sembra veramente un ragazzo intelligente, con un cognome che chiaramente non favorisce la fiducia a prescindere. Meno fiducia su Balotelli, nel senso che Balotelli mi sembra veramente una battaglia persa, e soprattutto Balotelli, l'abbiamo detto mille volte, va visto nel lungo periodo, nel senso che poi l'exploit, che è il motivo per il quale secondo me paradossalmente potrebbe essere più utile per la nazionale, premesso che non credo che Conte lo convocherà, ma insomma potrebbe essere più utile per una competizione breve, per fare un mese di un certo tipo, piuttosto che diventare un giocatore sul quale puoi fare affidamento. Questa per ora è la grande scommessa fallita da Balotelli. Riuscire a diventare un giocatore normale, tra virgolette, cioè certo. Che senti, fa Pirlo per l'europeo, visto l'infortunio di Marchisio, può essere un'opzione. Verratti, certo, Pirlo Verratti è fuori anche lui da un sacco di tempo per la pubalgia, certo. Non dimentichiamo questo. È chiaro, appunto. Pirlo è chiaro, non è la soluzione ideale, no? Nel senso che comunque alla fine è un giocatore meraviglioso, ma è un giocatore che sembrava fuori da un certo tipo di discorso, non ha partecipato alle partite di questo gruppo, però insomma, di fronte all'emergenza che dobbiamo fare? Certo. Io ieri mi sono arrivati poi mille messaggi, perché tanta gente polemizza su tutto, ho detto che la perdita di Marchisio è una perdita grave soprattutto per la nazionale. Certo, è così, ma con è tutto così. Rispetto, la Juve è arrivata al traguardo e quindi lo perderà poi chiaramente per la finale di Coppa Italia, che tra l'altro ha saltato anche l'anno scorso per squalifica, e invece la nazionale veramente Marchisio è uno di quei giocatori con sul quale forgiare la squadra, quindi secondo me questo è sicuro chi ci rimette davvero in questo momento è la nazionale, la Juventus pressoché vinto lo scudetto al traguardo, alla finale di Coppa Italia, ma poi la stagione termina lì. Esatto. Alessandro, buongiorno, abbiamo 20 secondi, dica. Eccoci, salve, un saluto a tutti. Io sto notando una deriva che nella prima gestione di Spalletti non c'era, che è quella che l'accomuna un po' a Capello. Cioè, ho vinto, abbiamo pareggiato, hanno perso. E sembra che Totti ne sia l'alibi. Questa è la mia sensazione. Ieri ha sbagliato la formazione, perché dopo 10 giornate, che va bene, smantella il centrocampo e la difesa, e mette subito lo scaldabagno a centravanti. Lo scaldabagno, va bene. Alias Dzeko, Pierluigi, hai 5 secondi per rispondere. Ieri Dzeko terribile. Io non ho capito, francamente non ho capito Rudiger esterno destro contro Gomez, questa è la cosa che non ho capito. Poi per il resto, secondo me il bilancio di Spalletti ad oggi rimane molto molto positivo, ripeto, in campo quasi perfetto. Sì. Tutte le dichiarazioni non mi sono piaciute. Ciao Pier, sentiamo ciao. Domani buon tiki-taka. Brocchi, ciao GR, torniamo subito e parleremo Formula 1, di nuovo calcio e poi Ducati. Cosa succede? Succede che oggi verrà annunciato ufficialmente Jorge Lorenzo come pilota per l'anno prossimo per una montagna di soldi, poi vi diciamo quante. Non è stato sanzionato, altro bombone abbastanza inquietante. Tutti convocati. Si ricomincia. Convocati. Prendere gol in superiorità numerica al 90esimo è vergognoso, quindi non lo accetto, avrei perso in maniera diversa, non ho mai detto nulla, però in campo le checche non vanno bene, in campo devono andare gli uomini con le palle, non le checche in mezzo al campo. Voglio che l'Arezzo rigiochi da squadra d'Arezzo, rigiochi da squadra di Capuano, che io ritrovo in campo dei maiali assatanati e una banda di ignoranti, non una banda di femminucce come abbiamo giocato domenica. Penso che posso dire una banda di femminucce o rischio un altro deferimento? Qui penso di no. Penso che lo posso dire, no? Non rischio un deferimento o una multa di 15.000 euro. E quindi voglio ritrovare la mia squadra, una squadra fatta di gente ignorante che ha fatto parlare l'Italia. Io sono uno che ha combattuto le nefantezze e le schifezze, prendendomi delle denunce anche dagli ebrei, quando rimembrai i forni crematori. Per me qualsiasi giocatore che va in campo e non spinge al massimo, per me non deve giocare più a calcio. A parlare, bu bu bu, siete scandalosi! Non siete in grado di superare nell'uno contro uno un giocatore di promozione. Siete lo scandalo! Siete lo scandalo! Voglio ringraziare Giorgio De Luca per aver rimesso insieme alcune delle perle stagionali di Eziorino Capuano. Vi mancherà, da ieri non è più l'allenatore dell'Arezzo dopo aver perso contro la Pistoiese, e quindi almeno per questa stagione ci siamo decapuanizzati. Che tristezza, eh? Mamma mia, mi viene da piangere. 800 24 00 24. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno, ciao a tutti. Volevo parlare, io sono un milanista, però dopo ieri pomeriggio ho detto voglio pensare solo a dire questo se riesco alla Radio 24. Sì. Leicester di Ranieri. Sì. Io mi sono collegato e ho visto quello che è successo, e lasciamo perdere che il Leicester vinceva 1-0, poi è andato sul 2-1, poi rigore. Ma l'espulsione di Bardi, un attaccante lanciato in area, se non è rigore al massimo può essere fallo in attacco, no, doppia ammonizione, espulsione, nessuno ha detto niente. Sì, anche Ranieri non ha detto nulla, no, ma lì e secondo me lì però sono esagerati pure loro, perché io veramente sono rimasto, noi siamo fatti male noi italiani, ma anche lì ragazzi un minimo, ma non no, ho visto ma... una cosa simile, ma siamo sbagliati noi, sono fatti giusti loro, ma non lo so più. Ma siamo semplicemente diversi, non è questione di giusto o di sbagliato. Lì l'arbitro viene interpretato come una parte del gioco, punto e basta, quindi fa delle sciocchezze clamorose, intendiamoci bene, come ha fatto ieri questo signore che ha diretto la partita di Ranieri, ma Ranieri dopo ha detto dell'arbitro io non parlo. Poi 2-2 e si rimane a distanza di sicurezza contro un Tottenham che giocherà questa sera con un arbitro che è stato cambiato, perché quello che doveva, ve lo ricordate, ve l'ho raccontato venerdì, quello che doveva essere l'arbitro designato della partita di stasera del Tottenham aveva manifestato le sue simpatie per il Leicester, quindi hanno detto no, meglio evitare casini, quindi facciamo arbitrare qualcun altro. Poi quello che ha fatto ieri l'arbitro che ha diretto la partita del Leicester, insomma, si commenta abbastanza da solo. Posso dire scarso e ci fermiamo lì. Federico, buongiorno. Sì, buongiorno. In realtà chiamavo ancora per la questione Totti-Roma. Sì. Io ho vissuto, non sono romano, ma ho vissuto a Roma tanti anni, più di 25 anni. Lo disse Capello, credo forse più di 10 anni fa, in tempi non sospetti. Questa è una piazza dove non si riesce a fare programmazione. E io credo che la vicenda Totti sia sintomatica di questo. Rappresenta la incapacità, e a me dispiace perché ho tanti amici romanisti, l'incapacità di questa piazza di sprovincializzarsi, di guardare oltre, di guardare avanti. Io ho tutti amici nei social, si vede Totti, un mio capitano, non lo toccate, eccetera, eccetera. Spalletti è tornato, ha fatto giocare da Roma, sì, ha infilato una quantità di risultati uno dietro l'altro. E qui stiamo ancora a discutere se Totti deve essere, perché no, la società non lo vuole. Federico, ne avevamo discusso a lungo, avevamo discusso a lungo di vicende simili anche quando la Juventus con grande freddezza licenziò Del Piero, no? Abbiamo detto le stesse cose, quindi non è tanto una questione di Roma, romanità, chiaro che lì vengono vissute le cose in maniera, se vogliamo, estrema. Però le stesse cose le avevamo dette a proposito dell'addio forzato e imposto di Del Piero. Avevamo parlato di Maldini contestato dalla curva nella sua ultima partita. Insomma, è sempre difficile ammainare una bandiera. Ciao Leo Turrini. Buongiorno maestro, possiamo cominciare col traffico? Subito? Così pronti sì, via? Direi, niente bandiere, niente. Aisca, società autostrade per viaggiare informati. Se siete sul grande raccordo anulare, c'è una coda all'altezza di Casalotti Boccea, perché la macchina di Spalletti ha tamponato quella di Totti e non si sa bene chi uscirà indenne intatto da questo groviglio. Amici romani e romanisti, e fatevene una ragione, il peggio deve ancora venire. Davvero, siamo tutti più sollevati, guarda Turrini. Beh, insomma, se devo il peggio dire, deve ancora venire. È una storione questa qui di Roma, no? È una storiona, sì. No, la si può veramente vivere come un grande romanzaccio popolare. Potremmo citare Gadda, quel pasticciaccio brutto di via Merulana. De via della Merulana, sì. Il cuore, la ragione, Spalletti che dice questi giocano a carte fino alle due di notte. Allora io vorrei confortare i romanisti in ascolto. Anche Vettel sabato notte a Shanghai stava ancora giocando a carta alle 2 della mattina. Ah, sì. E se ne è purtroppo accorto Kimi Raikkonen alla partenza, perché è stato speronato dal suo compagno di squadra. Gli aveva preso un attimo di pennica. Caro Genta, ma insomma, i grandi campioni, Totti, Vettel, eccetera, andate a riposare quando calano le tenebre. Vi vogliamo, ma sono ragazzi, Leo Turrini, sono ragazzi. Poi, dai, ragazzi, c'ha quasi 40 anni. Ma ragazzo, anche lui, dai, rispetto alla nostra grande età. Senti, ma mi è capitato di vedere un pilota grandissimo e di pensare, però sarebbe meglio, come dite voi dalle parti di Bologna, darla su? Abbandonare, smettere? Mm-hmm. Beh, adesso nella storia dei motori a volte si sono visti anche dei tramonti malinconici, perditi, con grande dispiacere, perché è quello che ha rappresentato per la mia generazione i 3 anni di Schumi in Mercedes, sì, quando decise di rientrare alle competizioni, al di là della sua buona volontà, al di là del fatto che a 44 anni suonati fece una pole position a Monte Carlo nel 2012, se non ricordo male, sì, insomma, furono comunque un po' tristi, no? Sì, non c'è dubbio. Lì dipende sempre dalla sensibilità del soggetto, cioè tutti vorremmo avere, adesso guarda, ti faccio una citazione che non riguarda né un pilota né un calciatore, no? Alberto Tomba, che non è mai stato descritto come un raffinato intellettuale, sì, ma è uscito di scena vincendo l'ultima gara di Coppa, certo, del Mondo alla quale ha partecipato. Certo. Si è tolto gli sci e ha detto, bene, basta, vi ho fatto vedere fino all'ultimo respiro di cosa sono capace. Non mi vedrete mai nelle retrovie tra le comparse. Bravo, ma sono quelli, ma sono è tanti, difficilissimo. È veramente, io capisco che è veramente difficilissimo, anche perché quando ci sono i ritorni di solito si traducono in una un'ondata di tristezza. Sai, Carlo, io ne ho visti tanti che non avevano, in qualunque disciplina, la capacità di staccare la spina prima che qualcuno glielo imponesse, hai capito? Puoi guardare anche nel ciclismo, hai visto dei fuori classe del pedale che si trascinavano sulle strade, certo, l'ultimo è di Merckx, no? Le ultime due stagioni non andava nemmeno a spingerlo la generazione dei nostri genitori, nel tuo caso i tuoi nonni, perché tu sei molto più giovane di me. Beh, Fausto Coppi fino al 1959 continuava a essere professionista, si iscriveva al Giro d'Italia e tutto, arrivava con un'ora di ritardo dalla maglia rossa. Voglio dire, qui andiamo molto... Rimangono un po' prigionieri, di se stessi. Sì. Senti Leo, ti faccio sentire, così andiamo in argomento... Ti faccio sentire tutto, un riassunto della giornata cinese. Sentiamo Sebastian Vettel. Okay, I made contact. I had no chance to avoid. I had the Red Bull coming on the inside like a madman. And I hit Kimi. Good job, Sebastian. P2. I'm great recovery. Strong weekend. Scusami. Massive apologies to the team, but surely I didn't do it on purpose. I'm really sorry for Kimi. There was nothing I could do. Kimi had came like a torpedo and I had to react. Il secondo posto di Sebastian e il piazzamento di Kimi sono frutto di un'ottima gara? Sì, però mi sono anche stufato di dire queste cose perché per un motivo o per l'altro non va come deve andare. Speriamo che si raddrizzi. Ho visto la Ferrari che sta crescendo, ho visto una Ferrari che mi piace, che è in alcuni sensi quasi immatura, ma sta venendo benissimo. È come guardare i bambini, stanno uscendo veramente bene, un po' ribelle. Te lo vado a sentire Marchionne, anche arriva bene. Grazie che mi hai proposto, Sergio. Guarda, posso dirti, forse è la prima volta da quando ha preso il posto dell'avvocato col ciuffo a mo' di tergicristallo, no? Che Marchionne ha parlato con l'approccio giusto, perché ha detto, in questo frammento mancava, beh, insomma, la partenza dei nostri piloti non è stata da Ferrari, però quello che abbiamo visto sulla pista ci fa pensare alla SF16H, e tu qui mi devi chiedere cosa vuol dire H. Cosa vuol dire H? Hai visto mai? No? Visto mai. Ecco, è come una bambina splendida che sta crescendo, un po' ribelle, perché effettivamente dopo quell'episodio, la prima curva, Raikkonen era ultimo, Vettel era dodicesimo, hanno fatto entrambi una corsa stupenda. Il dispiacere è che i tre Gran Premi noi non abbiamo mai avuto modo di vedere dal primo metro all'ultimo la Ferrari che prova a giocarsela con la Mercedes di Rosberg ad armi pari. Poi magari si perde lo stesso, certo, però qui certo. Rimani sempre con una sensazione di incompiutezza che dici come sarebbe andata se, però nel frattempo questo figlio d'arte scappa. Poi vabbè, su Rapero Cormano, lo sapete, c'è questa multipla di Vettel che ha speronato la Jeep di Raikkonen. Ora tu mi chiederai, caro gente, ma perché Vettel è stato così aggressivo al via con Raikkonen, poi si è profuso in scusa? Fatti no? la domanda e dati una risposta. Ecco, bravo. Il punto è questo, che Seb, che comunque è un grande, insomma ha avuto anche l'onestà di ammettere che aveva danneggiato il compagno di squadra, si è reso conto che Raikkonen va forte come lui. Addirittura sabato in Cina abbiamo visto il santo bevitore che forse aveva sostituito la vodka con del ginseng stati davanti in qualifica, che è un evento epocale, capito? Sì. È una roba come dire Totti alla Lazio questa, no? Vettel si rende conto che ha un compagno di squadra che ha il suo livello e giustamente in una logica di competizione cerca di sopravanzarlo alla prima occasione utile che è la partenza. Questo, sviluppando il negativo della fotografia, come diceva mia suocera ai tempi in cui non c'erano gli smartphone, può anche essere incoraggiante per i ferraristi, perché vuol dire che entrambi i piloti ritengono che questa sia una macchina vincente. Sì. E non vogliono mollare neanche un centimetro, nemmeno in partenza, al collega di lavoro. Sia una macchina vincente da dimostrare, mentre sto vedendo il contatto ma pura casualità. Questo sicuro che non va bene. Lei mi insegna. Senta, Turrini, mi dica ancora una cosa. C'è anche due. Dove è finito Hamilton? Cosa devo fare? Chiamo chi l'ha visto? Lei, posso dare il cellulare? Ma perché va in pista e il suo fratello? Io le do il cellulare. O il cugino? Le do il cellulare di Lindsay Vonn. Perché io l'avevo già spiegato a tutti i convocati. Non esiste, serio. Dai. Allora senta, cosa diceva Agatha Christie? Un indizio, un indizio. due indizi fanno una prova. Va bene. Allora, Lindsay Vonn, che è una creatura deliziosa, sciatrice bionica, con una propensione sentimentale per il moro, no? Il moro di Venezia, ha disintegrato Tiger Woods già, o no? Il re nero del golf, e lei ce lo ricorderà, caro gente, perché fa questa bellissima trasmissione che è un cult, un must, eccetera. Da quando, insomma, è molto amica, ecco, fermiamoci lì perché io e lei non facciamo gossip, di Lewis Hamilton, mi dica lei, caro gente, che succede? Succede che se Hamilton fa la pole, vede Australia e Bahrain, alla partenza si addormenta dopo una curva ottavo. Se parte dal fondo, non ha lo stress della pole come ieri, comunque si distrae, parapiglia iniziale, tampona una Sauber. Allora, io dico che l'effetto, ma vorrei cambiare vocale, l'affetto Lindsay che sta condizionando pesantemente il tre volte campione del mondo. È pazzesco, io non ho mai visto una trasformazione di questo tipo. No, ma dire, guarda, non allora, se tu puoi, Carlo, se prendi anche i tre gran premi della passata stagione ultimi, quando Hamilton per la verità era già matematicamente certo, almeno lì una motivazione c'era, dai Leo. Perfetto, ma siamo 6-0, Sì, sì, siamo 6-0. Siamo 0-6. Siamo 0-6. Nadal Fognini. Siamo 0-6. Il beneficio di Fognini. Non, guarda, non, allora, nella storia recente, almeno dell'automobilismo, tolto ovviamente l'eccezione classica, iconica, Senna Prost, non è mai accaduto che un numero 2 che ha perso due mondiali di fila rispetto al suo compagno di squadra poi abbia ribaltato la situazione così. Non è successo con Barrichello con Schumacher, non accadeva con Berger con Senna alla McLaren, non capitava con Mansell e Patrese alla Williams. Siamo in presenza di qualcosa che si materializza, è clamoroso. Ci voleva il tornado biondo per portare Raikkonen. Giorgio Bocca, mi consenta, caro Genta, una citazione, perché Radio 24 sta al nord, no? Tira più in cavallo da porta che c'è in cavallo da trota. Per chi vuole capire, capisca, chi vuole intendere, intenda. Mi sa quasi tutti. Un messaggio subliminale. Mica tanto. Ciao Leo, grazie. Un abbraccio. Ti abbraccio forte, ciao, Leo Turrini. Ciao, di Corsa da Gianfranco, buongiorno. Buongiorno. Io vi seguo sempre, sono bravissimo. Tifoso del Milan e chiamo sempre quando ci sono disgrazie nel Milan. Disgrazie? Quali sono state? Non risulta. La seconda disgrazia, secondo me, è aver cacciato Mihajlovic. E le spiego perché. Intanto devi pagare il signor Seedorf, il signor Inzaghi, sì, ma quello il lo signor sanno. Mihajlovic e vabbè. Mi dispiace che la Juve vinca lo scudetto, però se lo merita sotto certi aspetti, mi dà un fastidio atroce come però c'è tutto da imparare. Quando hanno licenziato, non so se ti ricordi, prima di Conte c'era Ferrara, sì. Ferrara l'ha tenuto fino alla fine dell'anno, mi sembra, o sbaglio? No, non mi pare che l'abbiano tenuto fino alla fine dell'anno, l'hanno mandato via e l'hanno sostituito con Zaccheroni, quindi non l'hanno tenuto lì. Però per la cronaca siamo precisi, Seedorf il rapporto contrattuale è risolto, ha avuto i soldi che doveva avere, Inzaghi arriva fino al termine di questa stagione a prendere i soldi dalla proprietà, e quanto a Mihajlovic c'è un altro anno che balla. Quindi questo tanto per essere chiari, non stiamo parlando di cifre stratosferiche per questi allenatori, però questa è la realtà. Domenico, buongiorno. Buongiorno, io volevo dire una sola cosa. Non dobbiamo accostare il giocatore del Piero con Totti. Totti non ha vinto niente, purtroppo, perché ha voluto fare la scelta di stare a Roma. E Totti ha firmato un contratto in bianco e ha detto: vedete voi cosa volete dare. Certo, ti è dispiaciuto, ma non ha fatto quello che ha fatto, che sta facendo Totti. Abbiate pazienza, sarà una bandiera. Sì, Del Piero ha giocato nella Juventus, Totti ha scelto di rimanere a vita, di sposare a vita la Roma. Poi sul resto, insomma, io dico che Totti è stato ed è stato un giocatore straordinario. Abbiamo una chiusura ve l'ho promesso, per questa notizia che oggi diventerà ufficiale. Ciao Roberto Ungaro. Ciao Carlo, un saluto a Ciao. Tutti. Allora, ciao. Da oggi diventerà ufficiale il passaggio di Lorenzo alla Ducati, è così? È È così, non voleva dirlo e fare l'annuncio a Jerez perché non voleva decentrarsi da quello che è la gara. Domenica, quindi, entro stasera, massimo domani sarà ufficializzato, 25 milioni, vuol dire, Carlo, un milione al mese, sì, per due anni, sì, più 500, facciamo 500 di tredicesima. Al limite potrebbe lamentarsi che la tredicesima è un po' bassina rispetto, sì, alla mensilità, sì, perché di solito è quasi cos'è, 80% più o meno. Sì. A parte gli scherzi, Gigi Dall'Ini è riuscito ad affermarsi, perché Gigi già lo conosce bene, ha vinto dei mondiali con questo ragazzo, e quindi quello che manca a Ducati è solo dimostrare che la moto c'è, rivincere un mondiale, non per il fenomeno Stoner, ma perché il mezzo lo consente. E la soluzione si chiama in questo momento Jorge Lorenzo. Sai cosa sarebbe bello? Mutuare pratiche da altri sport, soprattutto americani, e farlo subito questo passaggio. Sarebbe molto bello, sì, perché adesso immagina cosa vuol dire stare in squadra, Yamaha, che comunque cercherà di vincere questo mondiale, però immagina a livello psicologico, sono già separati in casa. E tanti dicono che questo potrebbe essere un danno per Valentino, perché Lorenzo, che è sempre stato il più veloce subito dal venerdì, è quello che mette a posto la moto, sì, che aveva anche detto mi ruba anche le marce addirittura. Sì. Allora ti dico, se non stravolgono la moto non sarà così, perché adesso ci sono talmente tanti dati, c'è un database così complesso che tu parti già da una base buona. Questo motivo in più per non fare magari stravolgimenti da parte di Yamaha, perché questo potrebbe magari invece generare dei problemi per Valentino. E dall'anno prossimo si tira la riga, come si dice a Bologna, e si parte da zero. Un foglio bianco, sarà molto molto divertente. Grazie Roberto, ci sentiamo molto presto. A te Carlo, un ciao, saluto a tutti. Ciao Roberto, ciao. Ungaro. Quindi 25 milionuzzi di euro per Jorge Lorenzo da parte della Ducati per i prossimi due anni. Oggi sarà ufficiale, noi ve l'abbiamo già detto. Giorgio De Luca, il nostro dottore, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti, ci sentiamo domani. Auguri, buon lunedì.